un nostro sito e potrai Radio. Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Vladene zore, Balkan Rock, Udeverista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Balkan Rock, martedì 15 aprile, sono le ore 21:08, quindi siamo sempre in ritardo perché abbiamo dei tempi balcanici, non ci possiamo far niente, insomma. Tu soprattutto, tu sei la più balcanica di tutti qua dentro. Ma in quanto buonasera, appartenenza buonasera geografica avrei da ridire, comunque. Va bene, quindi salutiamo i nostri radioascoltatori, il primo martedì che trasmettiamo dai microfoni di My Radio. Abbiamo cambiato giorno di trasmissione dalla domenica al martedì, speriamo di non perderci i nostri affezionatissimi radioascoltatori per strada, ma torniamo oggi più carichi di prima perché abbiamo una ospite. Sì, un ospite che presenterai tu. In realtà stasera avevamo in programma di fare una trasmissione dedicata al pop anni 80, quello scintillante, danzereccio, invece poi c'è stato questo cambio di programma e quindi faremo una chiacchierata con... Faremo una chiacchierata con Francesca Scappini, ciao! Ciao a tutti! Ciao Francesca, siamo un sacco contenti di averti qui perché insomma tu sei empolese di... si dice empolese? Empolese. Benissimo. Sei empolese, quindi abbiamo dovuto insomma chiamare tutti i piani alti per farti portare a Torino, non riuscivamo, e quindi meno male che hai accettato il nostro invito, siamo contenti con te che sei una viaggiatrice professionista ormai dei Balcani. Sì, insomma, intanto grazie per l'invito, che vi ascolto sempre con molta voglia, aspetto a gloria ogni puntata. Grazie, per questo verrai pagata. Certamente. Aivar però e Cevapcici. In Aivar e Cevapcici, assolutamente, e Sarajevo Pivo. Ovvio. Benissimo, allora noi andiamo a sentirci il prossimo brano degli Kladno Pivo e poi andremo a chiacchierare un po' di più con Francesca. Il tema della serata è il viaggio. E questi sono i Kladno Pivo con Nema Vish. Nekad strpljivo slušala Allora Nema Vishe nasce Birti, non c'è più la nostra osteria. Ahimè, secondo me però è una metafora. No, parlo proprio di quello, cioè della scomparsa, dei luoghi di ritrovo dove si beveva il bicchiere di rosso, che sono stati sostituiti da questi locali per gli aperitivi, apericene, tutti trasparenti di vetro, con, com'è che dicevano, con il cesso che sembra una sedia elettrica, dicevano i Kladno Pivo. E gli Kladno Pivo di dove sono? Sono croati. Io penso croati. Sì, sì, sono croati. O istriani, però, o appena dalmati. Esatto, non so, non so, Gabriele, penso che sia... No, Fiume. Fiume, sì. Fiume, sì. O Fiume o Pula. Sì, può darsi che facciamo parte del punk, della scena punk di Assepola di... Fiume, sì, c'è un sacco di gruppi punk in quelle, da quelle parti. Benissimo, allora andiamo così a introdurre la nostra ospite. Tra l'altro abbiamo anche un ospite misterioso questa sera, un ospite che vedrete nelle foto del backstage, ma ha deciso di rimanere, insomma, in silenzio, perché lui fa il misterioso. Di rimanere nell'ombra. Esatto. Ma lo vedrete, perché lo cercheremo in qualche modo di scoperchiare la sua identità. E... il consenso, spero. Ma questa mania dei social network di pubblicare qualsiasi cosa. Ma sì, ma sì, ma sì. E dunque, quindi Francesca, tu in che modo sei entrata? Cioè, io lo so molto bene in che modo sei entrata a far parte appunto di questa famiglia dei malati di Balcani, dei balcanofili, che insomma una malattia da cui... È una malattia gravissima, molto grave. Poi, cioè, non ne esci più, una volta ci sei dentro è finita. Esatto, l'unico modo è curarla con Balkan Rock. Sì, infatti. Cioè, non ci sono altri rimedi. E sarei scopivo. Cosa sarebbe? Una terapia d'urto? È una terapia d'urto, esatto. Sì. Quindi, niente, in che modo sei entrata tu in contatto con il mondo dei Balcani? Beh, in realtà 10 anni fa ero negli scout e rimasi un po' affascinata da questo mondo balcanico che in realtà non conoscevo affatto, e andai in Croazia all'inizio in un campo profughi, ma niente di... Ma in che anno? Che anno era? 2005. Nel 2005 praticamente hai fatto un campo profughi, hai fatto un campo con la Gesci, sì. In un campo profughi in Croazia. Sì, al confine con la Bosnia. E poi cosa è successo? E poi l'anno dopo ero presa benissimo da questo mondo balcanico che avevo appena scoperto e decisi di partire di nuovo per Sarajevo, sempre con gli scout, e poi ci siamo pure conosciute, insomma, alla fine è nato tutto da Sarajevo. È nato tutto dall'amore che hai nei miei confronti. Certamente. Che non mi hai mai confessato. Di cosa si occupava questo campo scout? Cosa facevate in particolare? Ma facevamo... Che tipo di volontariato? Sì, in realtà era proprio un campo di conoscenza più che di volontariato più che di volontariato stretto. In realtà andavamo là e conoscevamo una realtà che è così vicina all'Italia, perché io da Empoli ci mettevo 12 ore a arrivare in macchina, ma che è lontanissima anni luce dalle conoscenze che hanno le persone, dalle percezioni. Certo. E quindi niente, sono arrivata là e ho scoperto un mondo che mi è piaciuto tantissimo. Sì, quello che dicono in molti, infatti, che c'era questa lontana, questo muro invisibile, sì, che è un po' l'eredità della guerra fredda, sì, poi dopo del conflitto, e che adesso piano piano si sta, insomma, sì, un po'... sta dissipando un po' questa cortina, no? È un po' simile alla mia storia, diciamo, cioè un po' uguale alla mia storia. Siamo state appunto insieme a far parte di questo progetto che si chiama Progetto Sarajevo, un progetto della Gesci, di cui, vabbè, non parleremo specificatamente questa sera, ma di cui Francesca fa ancora parte, e che ha deviato tanti di noi, che poi insomma sono entrati in contatto da ragazzi con questa realtà, e poi negli anni hanno coltivato questa che è diventata una passione, poi per alcuni anche una professione, un modo per appunto... Sì, anche per farsi una vita che non sia solo quella del giardino di casa in Italia, insomma. Esatto, esattamente. Allora, così, proprio perché stavamo parlando di quella che è Sarajevo, andiamo a sentire un pezzo che è degli EKV, si intitola proprio Sarajevo. Di che anno è questo pezzo, Dule? L'86. Sai tutto, mamma mia. Vabbè, bravissimo. Sa tutto questo ragazzo. È un secchione. Sarajevo. Beh, dei gruppi che mi piacciono. E Katarina Velika. Sarajevo. osjećanja Sarajevo od blata i snega Odari mi inje sa očiju i čela Izađi iz mene, izađi iz mene Pusti oči da vidiš ovaj put Pusti uši da čuju još ovaj put Sarajevo Sarajevo, kristal usjećanja Sarajevo, od blata i snega Izbriši mi inje za očiju i čela Izađi iz mene Usjeći da vidiš ovaj put Usjeći da čuju još ovaj put Katarina Velika, Sarajevo, una canzone meravigliosa, direi, dell'86 hai detto? Sì, l'86. Quando Svetro Mulice l'album, mi pare, con il vento in faccia, sarebbe tradotto. Ma torniamo alla nostra ospite. Torniamo alla nostra ospite che non viaggi in Bosnia e a Sarajevo in particolare. Spesso no, ci chiedono dei consigli su dove andare, no? È capitato un sacco di volte. Certo, sì, che ti chiedessero allora, ma se vado a Sarajevo che cosa c'è da vedere? Allora, anche perché noi la Sarajevo dell'86 non l'abbiamo vista, almeno io no, e Francesca neppure, tu Dusko neanche, credo, perché l'ultima volta l'ho vista da bambino, quindi con gli occhi di un bambino, chiaramente non certo. Non so dove andavano i giovani, cosa facevano. A me importavano al parco, a Trebević, in montagna, cose di questo tipo. A Bolba lì è dove c'è, come si chiama? Bosansko Vrelo, no? Ah sì, Bosna. No, Vrelo Bosna. Vrelo Bosna, sì, in questi posti qua. Natura. Va bene, quindi la Sarajevo del 2014, consigli per gli acquisti, dove andiamo in vacanza quest'anno? Ma in realtà Sarajevo è cambiata un sacco in questi anni e bisogna stargli un po' dietro, perché ci sono un sacco di locali nuovi che anche io ci vado ogni anno, non mi ricordavo neanche ci fossero. Però c'è una scena bellissima underground in Basharsia, che è la parte più vecchia della città, e ci sono due o tre locali che io mi sono fatta lo scorso anno e sono veramente veramente belli. E sei sopravvissuta? E sono sopravvissuta, tra l'altro. Il tuo fegato no? Il mio fegato no. Però la cosa che mi ha stupito è che in realtà paghi un pochino per entrare, che è una cosa nuovissima per me in Bosnia, dove comunque la vedevo molto più free, accessibile, però neanche più di tanto, insomma, non so, un euro l'entrata, quindi alla fine ci può pure stare. Però è stato molto bello vedere questa scena in Basharsia, che di giorno è visitata da turisti, anche tantissimi italiani, e di notte si trasforma e accoglie la scena underground giovanile. Quindi è concentrata proprio nella città vecchia, cioè, non l'avrei detto, neanch'io. Pensavo che fosse più un posto turistico fighetto, un po' ingessato, cioè più da appunto. Sì, infatti è un po' cioè è un po' ha subito anche me questa cosa, sì, molto. E invece, come ti viene in mente il nome di qualche locale? Non so, Pussy Galore, che è un posto, sì, che è un posto un gruppo americano, tipo noise blues, che si chiama Pussy Galore. Sì, però non so, è un posto, era un posto quando sono stata a maggio lo scorso anno che mi ha veramente, non so, intrippato moltissimo. Musica, ok, non era musica trash, ci può essere magari in certi posti, né troppo kitsch, però molto, non sembrava neanche di essere in Bosnia. E poi non so, io sono rimasta affascinata dal Kino Bosna, che in realtà è un centro sociale bellissimo. Il Kino Bosna è, diciamo, forse il simbolo. Di quella che è la Sarajevo Underground. È un ex cinema? Sì, è un ex cinema che era sotto la linea del fronte. E la proprietaria ha deciso comunque di trasformarlo dopo la guerra in un posto che fosse per i giovani e gestito da giovani. Ah, quindi proprio per iniziativa della proprietà, non è che è stato richiesto, ottenuto in qualche modo, ma proprio concesso generosamente da. Sì, è un ex cinema, è molto, non so, molto bello. Io ci sono stata anche la mattina, non so, a bere un po' di rakia. Tra l'altro alle 11 di mattina non è la cosa più salutare. Però la proprietaria è molto brava, io ci ho parlato, tra l'altro lei parla un po' italiano, un po' bosniaco. E la sera si trasforma in ci vai a ballare, ci vai a bere. E lunedì soprattutto, io non ci sono mai stata, però pare si balli sempre da link sul tavolo. Che, però, insomma, sarà la prossima tappa che farò. Però. E soprattutto sarà la prossima trasmissione che faremo. Dopo quella del synth pop anni 80 ci sarà una trasmissione solo sulle serve da link, perché giustamente merita. E tenetevi tutti pronti. La condurrai tu. E invece la discoteca Sloga esiste ancora? Sì. Lo Sloga esiste. Sì. E che posto è? Si è un po' trasformato, secondo me, in una scena che definire underground non sarebbe appropriato, è proprio più un disco pub molto molto frequentato. No, perché negli anni 80 era un posto dove andavi a ballare i Cure, non so, i New Order. Sì, in realtà dipende dalla serata, nel senso che ci sono delle serate magari un pochino più commerciali e delle altre forse in cui appunto il tema è diverso. Io ci sono stata un paio di volte, ho beccato tutte le serate, quelle più squallide, in cui c'erano... Io ammetto, non ci sono mai stata, quindi proprio... No, mi viene in mente anche per questo nome, Sloga, sai, un nome, è rimasto questo nome socialista, no? Sloga sarebbe tipo unità, no? Sì, forse anche per quello, non so, però sì, ma bisogna avere un po' fortuna però nei locali a Sarajevo, perché non sempre c'è, a parte alcuni, altri magari trasmettono musica bella da ballare, altri musica, insomma. E a proposito, magari sarebbe carino citare il documentario che parla della scena musicale sarajevese, uscito qualche anno fa. Certo, tra l'altro io spero che prima o poi la nostra amica Francesca, un'altra Francesca, ci dedichi un martedì sera libero per poterne venire a parlare lei personalmente. Il documentario si chiama La Resistenza Nascosta, di Francesca Rolandi, e il suo collega si chiama Paco Carlito, poi non mi ricordo. Bene, adesso andiamo a cercare, se non mi ricordo, però è un bel documentario uscito ormai nel 2008 sulla scena alternativa underground sarajevese. Sì, molto molto bello, lo consigliamo a tutti la visione. Se ne volete avere una copia potete rivolgervi tranquillamente a noi, vi faremo entrare in contatto con i registi e insomma speriamo comunque che di dedicare un'intera puntata a questo documentario, che merita davvero di essere visto. Andiamo a sentirci il prossimo pezzo? Andiamo a vedere? No, perché insomma è un po' un problema. Non facciamo i DJ, non siamo una web TV, ma ci stiamo attrezzando. Sì, così almeno l'ospite misterioso in questo momento potrebbe comparire da un momento all'altro. Lui non lo sa, ma stiamo registrando tutto. Quindi cosa abbiamo in playlist? Abbiamo il Culture Shock, vedo. Esatto, il Culture Shock con God is Busy. God is Busy, il gruppo americano-bosniaco, metà e metà, sì, sono di Seattle, però il cantante è un altro membro che non ricordo cosa suona. Sono bosniaci e fanno questo miscuglio di punk, metal e folk balcanico. Molto molto carini, li abbiamo visti quest'estate a Novi Sad, vero? Sì, sì, esatto, Novi Sad. È stato un bel concerto, forse il più bel concerto che abbiamo visto nella nostra vita passata novosadese. Sì, dal vivo spaccano decisamente. Va bene, allora questi sono i Culture Shock con God is Busy. May I help you? Shock, molto molto molto bravi. Mi è venuta voglia di vedere un concerto dei Culture Shock ascoltando questo pezzo. Sì, tra l'altro è un gruppo autoprodotto, non sono sotto nessuna etichetta, si autoproducono, hanno fatto questa scelta meritevole, diciamo. Bravi Culture Shock, bravi e belli, il cantante merita. Bello a modo suo, sì. Sì, un po' specie di orco, vabbè. Ha il suo perché. Ah, questa sera a microfoni spenti stavamo chiacchierando un po' a cena sul fatto che vorremmo scrivere un libro. Francesca vorrebbe scrivere un libro su tutti i suoi viaggi che ha fatto nei Balcani, e in effetti di cose da dire ce ne sono, e ce ne sono tante. Allora la prossima domanda è: qual è l'aneddoto che un po' ricordi come la cosa più assurda che ti è successa durante i tuoi viaggi? Qualcosa ti deve per forza essere capitato, qualcosa di assurdo, sì, nei Balcani, diciamo, certo. Me ne è successo sempre qualcuno di assurdo, non so, da qualsiasi cosa, da uccelli si spiaccicavano contro il vetro della macchina perché andavi troppo forte, oppure non so, mucche che trovavi sulle strade di campagna. Ma sicuramente però quella che mi ha fatto più ridere è stata che una volta passando il confine confine in Bosnia, ci siamo presi in 3 ore e 4 multe. Grande. Wow, che record. È stato un record che tra l'altro non siamo riusciti a arginare. La prima 20 secondi dopo il confine e dicevano che andavamo troppo forte. Però ovviamente lì multe, si tratta di gente che comunque chiaramente chiedeva, sì, qualcosa in cambio. Sì, non chiaro, è che... insomma, alla fine... non multe vere col verbale, no, multe quelle... multe in amicizia. Multe in amicizia. In amicizia, quanto avete sborsato? Ma quella sera lì 10 euro perché eravamo molto stanchi e loro pure, però ce ne chiedevano un po' di più, abbiamo un po' contrattato, ma neanche più di tanto, sì. Ma 10 euro in totale o sì, 10 euro per in multe? Totale. Ah, no, ok, no, no. Quindi ve la siete, sì, cavata siamo anche bene. Bene. In realtà avevamo solo quelli di euro, avevamo solo quei soldi lì in contanti. Certo, quindi... in Italia si sogna 10 euro di multa. Sì, sì, sì, sì. E beh, poi vabbè. Però comunque il costo della vita è molto diverso, soprattutto in Italia. Insomma, nonostante ci siano tante cose che sarebbero da riformare, però... il costo della vita è ormai non regge più, perché il costo degli standard ormai si stanno avvicinando. Questo è anche vero. Pericolosamente. Però giuro che in Italia non ho mai incontrato nessuno che mi chiedesse di dargli sotto banco la banconota per non farmi avere la multa. Ah, beh, sei, sì, di Torino. Sono di Torino. Che ci vogliamo fare? E invece il nostro ospite misterioso se la ridacchia, perché secondo me è stato uno dei contravventori. Eh sì, davvero. Guidava lui, tra l'altro. Ecco. Quindi vabbè. Quindi questa è stata la cosa più assurda, sì, forse la cosa più assurda, no, però sicuramente è stata quella più incredibile. Non so, altre cose assurde, quando, non so, vado a casa soprattutto dei genitori, degli amici che ho là, non so, il maiale che viene macellato all'istante, ti ritrovi in una stanza piena di bacinelle di maiale a pezzetti e dici vabbè, forse ho sbagliato stanza. Scene di vita rurale. Sì, scene di vita vissuta. Ecco, un po' una cosa alla Ermanno Olmi, tipo l'albero degli zoccoli. Sì. Oppure quando, se non è il maiale, insomma, ti trovi in mezzo alle bacinelle di Krauti messi a macerare. Sì, di Krauti messi a macerare, sì. Non so, di Ivar che sta bollendo, insomma, ce ne sono di cibi sprecati. A fine estate, la preparazione dell'Ivar sui balconi. Sì. Beh, questa è una scena tipo non solo rurale, è una cosa che si faceva anche nei sobborghi di Sarajevo, piuttosto di qualsiasi altra città jugoslava, si cuocevano i peperoni sul balcone, chiaramente, se no, per non impestare la casa. A me è venuta in mente la cosa più assurda che è successa a me, o quella che almeno ricordo come cosa assurda, perché poi è anche vero che dopo un po' di tempo che si è abituato a bazzicarci da quelle parti, poi non ci fai neanche più caso, ti sembra che sembra tutto normale, cioè ormai normale, insomma. Vita naturale, proprio, dici ok, sì, può succedere ovunque. Infatti, e quella che mi ricordo io come scena più allucinante è in un locale a Lukavica, nella Sarajevo cosiddetta est, che poi a est non è, però la parte serba di Sarajevo, per chi dei nostri ascoltatori non fosse così al corrente, è un locale che si chiama You, credo. Non... ah sì sì sì, hai presente? Un caffè You, qualcosa del genere. You con la Y, sì. You della Jugoslavia. Esatto, sì, esatto, che ha penso anche i colori della bandiera, sì, jugoslava. Ah. Mi è successo proprio lì dentro che tipo avevo portato un ragazzo che era venuto con me per la prima volta in Bosnia, gli hanno messo una pistola nei pantaloni, anzi nelle mutande. Io sono stato a questo momento di gelo in sala e poi vabbè, l'ho riaccompagnato per a casa. Motivo? Ma così per scherzo, me lo ricordo ancora, si chiamava Jovica e stavano festeggiando tutti la vincita di una canzone di Maria Šerifović, Molitva, all'Eurovision di non mi ricordo che anno, sarà stato il 2007-2008, non ricordo esattamente, per cui insomma c'era gente parecchio motivata da questa vincita e stavano festeggiando in modo piuttosto allegro. Infatti, allora andiamo a ascoltarci la prossima canzone, che è una delle mie canzoni preferite degli Austor, si chiama Schalosfile e secondo me è uno dei testi più belli mai scritti nella storia della musica. Addirittura. Sì, stai zitto che la mettiamo, questi sono gli Austor. Missili, Valentina. Руку на раме. Там моя держава. govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sam. Ispod svih tih zastava što vjore svod oko nas, ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke. I pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu. Slobodan, neka smoga vrata vi uršat. questi erano gli Austor con Shallowsville. Bene, torniamo a parlare della Bosnia. Adesso ci spostiamo da Sarajevo verso le campagne bosniache. Tipo da Sarajevo dove si può andare per fare una gita fuori porta, per inoltrarsi tra i monti? Ma era... Hai avuto modo di... Ma sì, ho fatto la Bosnia, ma sono girata un po' in lungo e in largo quasi tutta. Niente, dove si può andare? Non lo so, ci sono delle bellissime montagne intorno a Sarajevo, che erano anche le montagne olimpioniche dell'84. Sì, la Jahorina, Trebević, so che ho sentito che anche lì adesso diviso su base nazionale, tipo sì. A Jahorina ci vanno i serbi e... Gli altri sì. Dove vanno? Boh, Trebević non ci va nessuno. Non ci va nessuno perché è ancora minato e c'è. Non ci va nessuno. Però sì, so che insomma, a Jahorina che ci vanno molti a sciare, hanno anche rimesso degli impianti, hanno anche rifatto gli impianti e tutto. Io sono stata una volta sola anni fa, ma non mi ricordo niente di particolare. Però una bella natura. Poi in Bosnia è molto verde la Bosnia in realtà. È molto molto verde. Sì, ed è assolutamente quello che insomma sempre mi è sempre affascinato, è assolutamente poco urbanizzata, per sì. Cui ci sono davvero degli spazi di vita vera. Sì, sì, sì, anche quando fai il pezzetto di autostrada che stanno costruendo da decenni e ancora non sono arrivati a niente, in realtà passi questi villaggi che sono veramente immersi in una natura bellissima, un po' sporca, ma perché purtroppo l'ambiente non è poi così molto rispettato. Però alla fine, non so, anche se vai su anche nel centro della Bosnia, che sia non so Brezza o piuttosto che Visoko o piuttosto che Zavidovici, comunque sono dei bei posti, ti passi delle belle dei belli altipiani. Ecco, a proposito di Visoko, ne parlavamo prima fuori onda, che ci sono queste piramidi, cioè c'è un tizio che sostiene di aver fatto una scoperta epocale e quindi di aver scoperto i resti di una civiltà avanzatissima che fa risalire non so a quale epoca, una sorta di 12.000 anni fa, una sorta di Atlantide bosniaca, secondo questo tizio qua, che poi attualmente è addirittura tra virgolette sponsorizzato dal Ministero del Turismo, perché pensano sì. Che possono fare un grande colpo dal sì, punto di vista turistico e economico, attirare un sacco di gente. Cioè, sì. So che fanno i tour intorno a questa pseudo piramide, però sì, in realtà le piramidi sono tre, forse una centrale e due attorno. La cosa vera, evidente, insomma, vedendo il paesaggio da lontano, è che questa collina che si chiama Visočica, mm-hmm. Ha effettivamente forma piramidale. Questo sì, ovviamente ha una forma molto regolare. Ha una forma molto regolare, senza... esattamente. Sì. Ovviamente questo non prova assolutamente niente. Le teorie di questo Semir Osmanagić sono ritenute dai più una bufala, per cui insomma non c'è nessun fondamento scientifico, sì, ancora. La teoria è smentita, però sta di fatto che ci sono dei tunnel, dei cunicoli sì. Dentro alcune di queste, ma io penso queste montagne che possono sì. Magari essere di origine preistorica. Non so, perché in realtà i cunicoli e i tunnel anche sotto quando c'era la Jugoslavia, comunque con il regime di Tito, erano molto utilizzati dall'esercito, so. Dici, sì, magari anche. Cose non so, io mi sono... per le esercitazioni, sì. Va a sapere, può darsi, eh. Non so. Vero, era un esercito fatto per, cioè, che utilizzava la guerriglia come principale metodo, sì, infatti. Di far guerra, quindi non sarebbe strano, ecco, che magari qualcosa fosse di origine recente, contemporanea addirittura, sì. di questa storia qua. Comunque questo Osmanagić era in realtà uno che si è rifugiato a Houston durante la dittatura di Tito, quindi era sicuramente un dissidente. Di che esatto tipo? Questo Wikipedia non me l'ha detto. Non te l'ha detto, no. Va bene. A parte lasciando le piramidi, se qualcuno vuole approfondire, si trova un po' di informazioni in rete in inglese anche su questa storia qua. Sì, comunque visto che è carina come cittadina, nel senso al di là delle piramidi, insomma. una delle mie tante avventure, come quelle di cui raccontava Francesca poco fa, ovvero la riparazione di una ruota di un Toyota. Ho passato tutta la giornata a Vissoco appunto per riparare la ruota, e quindi ho avuto modo di vedere tutti. La conoscerai molto bene, come le mie tasche. Infatti. Diciamo che in qualunque tipo di traffica, quindi di chioschetto, si vendono souvenir fatti a forma di piramide. Ci manca poco che mettano le mummie come nelle cartoline. Sì, ma se la tirano un sacco perché hanno le piramidi. Sì. Sembra di essere in Egitto, però. Mancano i cammelli. Sì. Paese in eterna crisi da 20 anni, che qualsiasi sbocco, ecco. Ma a noi ci piace così. Ci piace così, un po' trash, un po' egizio. Un po' l'arte dell'arrangiarsi, tipicamente balcanica. Bene, cos'altro possiamo citare della Bosnia? Possiamo prima di Travnik citare il nostro recentissimo più o meno viaggio a Travnik, in cui abbiamo scoperto questa. Io vorrei citare solo una cosa di Travnik, perché tanto sappiamo tutti che insomma è nato Ivo Andrić, che peraltro non si sa se sia nato realmente a Travnik o nella cittadina di Dolac, che è presso Travnik, cioè nelle vicinanze di Travnik, o addirittura in un treno, quindi sul treno nei pressi di Travnik. Questo non ci è dato di saperlo, perché i suoi biografi insomma sono un po' tutti discordi su questo argomento, e lui stesso in vita non ha mai dato una conferma di, forse perché non se lo ricorda neanche lui, probabilmente. Sicuramente non si ricorda, a meno che non gli abbia raccontato qualcuno. Esatto. La cosa che mi ha colpito di più di Travnik, che invito tutti quanti a visitare se fate un giro in Bosnia, è il caffè da Lutvo, che è un apparentemente una semplice cafana, un semplice posto in cui si vende caffè. In realtà è la più vecchia cafana di Travnik, che è citata addirittura nel prologo della Travnička cronica, cioè della cronaca di Travnik di Andrić, che dice esattamente testuali parole: in fondo al mercato di Travnik, sotto la sorgente fresca e gorgogliante del fiume Šumec, è sempre esistito, da che mondo è mondo, il piccolo caffè di Lutvo. Ormai neanche gli anziani ricordano Lutvo, il suo proprietario. Da almeno 100 anni egli riposa in uno dei cimiteri intorno alla città. Tuttavia si va sempre a prendere un caffè da Lutvo, e così ancora oggi il suo nome ricorre spesso nelle conversazioni, mentre quello di tanti sultani, visiri e bei è da tempo sepolto nell'oblio. Questa è la traduzione della cronaca di Travnik di Luigi Salvini. E a me è piaciuto moltissimo questa cafana, perché ci siamo entrati in realtà abbastanza per caso, non sapevamo neanche che si trattasse proprio dello stesso posto citato nella cronaca di Travnik, e in realtà dentro davvero sembra di ritornare a 100 anni fa. E il proprietario, che ovviamente non è più Lutvo, sarà un altro, ma ha conservato il nome, serve il caffè naturalmente turco, naturalmente nelle tradizionali filgiane, queste tazzine senza manico, molto basse, con la jezva, che sapete, tutto il bricco di rame tradizionale, e in più ti mette sopra una sigaretta Drina e un pacchetto di fiammiferi, che è la cosa davvero, è stata la cosa meravigliosa. Molto pittoresca, posto, quando entri dentro sembra di aver varcato una porta temporale. È rimasto ottocentesco, in legno, con i cuscini, con la stufa a legna gigante, con i gatti che girano. Un bel posto. Sì, bello. E non è addobbato così apposta per essere una trappola per i turisti, no? Come si usa a fare. Cioè, anche perché probabilmente sembra abbastanza a Travnik autentico. Non è che proprio non ne passano molti, decisamente. Ecco, sì, poi di fianco appunto a questo ruscello, uno spazio verde proprio a fianco. Un parchetto, sì, un ruscello che scende giù dalle montagne. Infatti, bello. Tutti a Travnik. Allora, il prossimo pezzo è dei Parni Valjak, Ugassime, uno dei gruppi preferiti anche da Francesca. Ti piace questo hard rock? Davvero, ogni tanto sì. Allora rock. questi erano appunto i Parnivagliac con un Gassimè. A parte i Parnivagliac, quali sono i tuoi gruppi preferiti? Pre-92, dai. Pre-92, ma pre-92 andiamo un po' nel difficile. Non so, a me piace un sacco, lo ascolto negli ultimi, nell'ultimo anno, un sacco di musica jugoslava, non trash, però un po', non so, che potrebbe ascoltare l'età di mia madre, non so, i Novi Fossili, questi gruppi un po'... Pop? Sì. Musica leggera. Sì, musica leggera, non so, però mi piacciono un sacco, cioè, mi piace proprio la musica. Poi in realtà per capire il testo ci ho messo una vita, però... proprio quelli su cui volevamo fare la puntata questa sera. Sì, no. Novi Fossili, comunque no. Pop sì, anni 80. Sì, come sono tipo gli ABBA, tipo, non so a cosa paragonarli. In realtà se li ho scoperti per caso a una festa in Istria, li hanno messi, ho detto: ah, bellissimo, bellissimo, voglio ascoltarli. E poi ho scoperto chi era, non li conoscevo prima molto. Sì, è al limite, sì, qualcosa. Sì. Cioè, non trash, però. Quasi. No, non sono ancora trash, però. Diciamo che non erano trash allora, ma sono destinati ad esserlo. Un po' come oggi noi consideriamo trash alcuni pezzi della Carrà, che all'epoca non volevano assolutamente esserlo, ma oggi. Vabbè, fanno che era parte trash ieri, allora anche oggi, non è che il tempo cancelli. No, beh, se c'è una percezione decisamente diversa. La percezione sì, sicuramente, però la... non era trash la capigliatura, no, un po' sparata con questi scaldamuscoli e il piedino che esce, cioè non era trash, era normale. Era assolutamente normale, se non considerato un simbolo di bellezza. Sì, è vero. Esteriore. E quindi hai detto che sei stata anche in Istria? Sì, sono stata in Istria un anno. In quel di? In quel di Buie, che è una ridente città al confine. Ma però... Buie è sul mare o no? No, Buie non è sul mare, cioè Buie non c'ha niente in realtà, se non due torri che la fanno, che la rendono caratteristica. Però diciamo l'Istria è bella perché è particolare, è un po' a sé stante, non è Italia, non è Croazia, si sentono balcanici quando mangiano i cevapcici e poi mangiano la pizza il giorno dopo. Non so, è bello per questo. Oppure addirittura la pizza con i cevapcici sopra. Questo non l'ho mai trovata, però potrebbe esiste essere. Ma te lo sei inventato te in questo momento? No, io credo di averla vista. Se non l'ho vista con i miei occhi è che avevo bevuto un po' di rakia in più. Però... forse la seconda opzione potrebbe essere quella giusta. Verifichiamo, però dal momento che esiste la pizza con kebab. Ma infatti secondo me qualcuno se l'ha inventata. Poche storie. Sì, infatti. E quindi, vabbè, così saltiamo direttamente al cibo. Cosa hai mangiato di caratteristico a Buie, oltre che la pizza? Ma il tartufo va tantissimo. In realtà sembrava di essere a casa mia, perché mangiavo la pizza, mangiavo la pasta, mangiavo il tartufo, che anche la Toscana è zona dei tartufi, quindi in realtà non era molto diverso. Però ogni tanto cercavo posti che facevano un po' cibo balcanico. Non so, pliskavica, cevapcici. Sì, perché quella zona lì dell'Istria, dicevamo prima, intorno a Motovun è abbastanza caratteristica appunto per il tartufo, per il vino. Per il vino, sì, hanno un buon vino. La Malvasia istriana. Malvasia istriana, sì, molto, molto, molto. Sono moltissime, moltissime vinerie e delle terme meravigliose. Ah, vero, si dice siano meravigliose. Sono meravigliose perché sono rimaste abbastanza, almeno l'ultima volta che ci sono andata io 10 anni fa, quindi non tutto può essere, magari nel frattempo si sono trasformate, però all'epoca erano ancora abbastanza popolari, non erano così infighettate come potrebbero essere quelle ormai in Ungheria, molto molto frequentate da chiunque. Erano molto belle, poi vicino a un monte di cui non ricordo assolutamente il nome. Non so assolutamente. Insomma, però molto bello, consigliabile tra l'altro in primavera. Come si chiama il posto? Istarske Toplice. Istarske Toplice, la città più vicina? Penso sia Motovun. Sì. Qui ci fanno un bellissimo film festival che è secondo nei Balcani solo al Sarajevo Film Festival. A Motovun? Sì. Penso pensa a te, ma quante ne sa la nostra Francesca? Io conoscevo solo quello di Pola, che era famoso durante l'ex Jugoslavia, non lo so se esiste ancora. Ma non lo so, non credi. Uno dei festival più importanti. Penso che già esista dagli ancora. Anni 60. Beh, se allora forse esisterà. Sì, credo di sì. Sì, immagino di sì, dai, questa tradizione l'avranno mantenuta. Sì. Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo. Purtroppo è quasi ora dei saluti. Dopo il prossimo pezzo, insomma, ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento per la prossima settimana. Questi sono gli Index con il titolo è Sve Ove Godine. Ok, Sve Godine Index. Di che anno è questo album? Non lo so, ma comunque è vecchio, vecchissimo. Index era all'inizio era un gruppo beat a metà anni 60, poi hanno avuto varie trasformazioni. Va bene. Sve Ove Godine. Questi erano appunto gli Index con Sve Ove Godine, tutti questi anni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vola sempre la il prima tempo puntata con me, che abbiamo vero? Fatto di martedì, altro che. Gli ospiti se la ridono. soprattutto la Fra, perché l'uomo misterioso comunque non ha la risata facile neanche stasera. Beh, insomma, adesso sta ghignando alla grande. Quindi ricordatevi, martedì sera, non più domenica, visto che è arrivata la primavera, di domenica ci sono anche altre cose da fare. Mentre di martedì sera c'è da fare solo Balkan Rock. Balkan Rock dalle 9 alle 23, la replica adesso. Dalle 9 alle 23. Dalle 21. Stai dando i numeri. Dalle 21 alle 23, dura 12 ore. No, dalle 21 alle 23. No, dalle 21 alle 22. Giusto, no, mi hai messo in testa tu sta cosa qua della trasmissione. Di due che ore. Deve durare due ore, sì. No, fuori per... onda c'è stata una discussione sulla durata della puntata. Ma bene, allora ringraziamo Francesca, grazie mille di essere stata con noi. Naturalmente sei invitata anche per le prossime puntate, quando passi da Torino sei la benvenuta ai nostri microfoni. Ci ha fatto moltissimo piacere averti qui con noi e niente, saluta, non lo sì, so, a casa. A saluta, no, gli amici della terza voi. B. E se voi mi avete invitato, e ripasserò sicuramente da Torino prima o poi. Anche perché Torino è la tua città, una delle tue città adottive. Sì, però non è tra i primi posti. Ahimè, perché fra i primi posti c'è Collegno, lei non lo sicuro sa ancora. Ma ci sarà Collegno. Ma ci sarà Collegno fra i primi posti. Benissimo, allora ci salutiamo. Per chiudere, sì, sentiamo i Vatrini Poljubac, Doctors Rock and Roll, il dottore del rock and roll, un pezzo del 1978. Ci sentiamo domenica prossima. No, martedì prossimo. Martedì. Dalle 9 alle 23. Va bene, Dovigenia, va. To rodio se sin, izučit će škole i bit će pametan i fin. Svi na meni su bili nešto fin, jer čekaju da budem doktor ili inženjer. Svaki roditelj što nije mogao biti, u djetetu svom on svjesno tu iluziju će kriti. Jeziku to mi u duši, jer ja nisam čovjek što lagati zna. Dugo sam bio bijela brana u kući, jer neće da shvate da putiram sam. Još vidim užas kod sviju na licu, kada prvi put ja rekao sam ne. I na svoju ruku sam postao čovjek, i kad bi opet ja isto bi sve. Pođe na dole, dosta mi slušanja tutora, dosta mi more. To što meni treba, to nema u knjizi, jer život se ne uči da bome, jer život se živi. Svi sad traže samo visoko zvanje, za njih sve ostalo je ništa, sve ostalo je da sam ja to, a ja im kažem doktor za rock and roll. To što na jeziku to mi u duši, jer ja nisam čovjek što lagati zna. Dugo sam bio mjela brana u kući, jer neće da shvate da putiram sam. Još vidim užas kod sviju na licu, kada prvi put ja rekao sam ne. I na svoju ruku sam postao čovjek, i kad bi opet ja isto bi sve. We'll be right back.